hanno sottolineato quanto il neoplatonismo occidentale e più generalmente la cultura in lingua latina del IV e V secolo debbano al filosofo di Tiro. Orbene, quello che io mi domando, si può inserire anche Gerolamo in questo quadro culturale dell'Occidente latino, nel quale grande parte avrebbe avuto il ruolo di Porfirio? Gerolamo potrebbe aver conosciuto gli scritti del filosofo greco durante la sua formazione giovanile, quando si trovava a Roma alla scuola di Elio Donato, là dove Mario Vittorino lo aveva utilizzato per i suoi opera teologica. L'ambiente sarebbe lo stesso. Questa ipotesi sarebbe attraente perché ci potrebbe far pensare ad una presenza di Porfirio, una presenza di Porfirio a Roma, una presenza delle sue opere, non Porfirio di persona, intendo dire, che si affiancherebbe a quella che supponiamo attraverso l'attività letteraria di Mario Vittorino, ma non sembra purtroppo dimostrabile. Innanzitutto abbiamo testimonianze della scarsa conoscenza del greco da parte di Gerolamo in quell'epoca, quando era a scuola di Donato, e precisamente una testimonianza che ci è fornita da Rufino. Se l'affermazione di Rufino potrebbe essere poco fededegna a causa del contesto polemico in cui fu fatta, esiste comunque un'affermazione di Gerolamo stesso riguardo alla sua scarsa conoscenza del greco in età giovanile, il quale, in un'epistola del 377, dice di essere in quel tempo ancora abbastanza digiuno del greco. Dunque, un'approfondita conoscenza del greco cade in un'epoca successiva, e più precisamente durante i soggiorni in Oriente, sia ad Antiochia, come ipotizzano Cavallera e Courcel, in base ad affermazioni di Gerolamo stesso, e poi naturalmente a Costantinopoli, quando fu a contatto con Gregorio di Nazianzo. Quindi è verisimile che Gerolamo non conobbe Porfirio nell'ambiente romano, ove probabilmente il filosofo neoplatonico era letto da poche persone competenti e agguerrite nella lingua greca. C'è però appunto un'affermazione di alcuni anni più tardi, nell'Epistola 50, ove lo stridonense dice di essere stato già in grado un tempo, grazie alle cure di un maestro dottissimo, di leggere l'Isagoge di Porfirio, cioè l'introduzione alla filosofia di Aristotele. Sarebbe stato dunque introdotto alla conoscenza della logica di Aristotele, secondo il Courcel, ad opera di Apollinare di Laodicea, appunto uno dei suoi maestri, dei suoi maestri greci, che in quell'epoca appunto aveva insegnato a Gerolamo anche l'esegesi. Né qui invano, dice in tono polemico allora Gerolamo, invano un doctus magister per mezzo del Eisagogen, per mezzo dell'Isagoge di Porfirio, mi introdusse alla logica. E questa è un'affermazione polemica, probabilmente nei confronti di Pelagio, forse, contro il quale allora Gerolamo si scaglia scrivendo ad Omnione. Ma è, a mio parere, un'affermazione abbastanza di difficile interpretazione, prima di tutto perché l'Isagoge non era certo una lettura per non competenti, una lettura, era un testo tecnico, l'Isagoge di Porfirio. E poi mi domando come mai, come potesse il cristiano e vescovo Apollinare proprio aver insegnato l'Isagoge a Gerolamo. Ma forse viene fatta passare per tale, questa affermazione viene fatta passare come vera per dar vita alla polemica. Comunque questa lettura così incautamente proclamata gli viene puntualmente riproverata da Rufino nella sua Apologia, viene presa per vera naturalmente e rimproverata da Rufino, il quale, dopo aver detto sardonicamente ecco che queste cose le dice, cioè questa affermazione dell'avere conosciuto l'Isagoge, le dice colui che aveva proclamato, rivolgendosi a Cristo, se io avrò preso in mano dei codici di opere pagane, questo significherà già una mia negazione, la famosa visione che aveva avuto nel deserto. Prosegue Rufino dicendo, non fosse altro avrebbe dovuto tacere a proposito di Porfirio, qui specialis hostis Christi est, Porfirio che è un nemico dichiarato di Cristo, che per quanto è stato in lui ha cercato di distruggere completamente con le sue opere la religione cristiana. E prosegue dunque, come vedo fratello, dice Rufino rivolgendosi a Gerolamo, è stato di un brutto inizio quello che ti ha fatto il tuo maestro Porfirio introducendoti alla logica. Dove ti ha introdotto Porfirio? Se ti ha introdotto nel luogo dove si trova lui, lì c'è pianto e stridore di denti, appunto il nemico dei cristiani. Quindi è lecito nutrire qualche dubbio circa la reale conoscenza degli Isagoge di Porfirio da parte di Gerolamo. Maggior peso, sappiamo bene, ha nella sua attività letteraria l'opera famosa Contro i cristiani. Riferimenti al Contra Christianos si incontrano un po' in tutte le sue opere, sia in quelle teoriche, nell'Adversus Pelagianus, sì, sono ancora abituato a chiamarlo Adversus Pelagianus invece di Altercatio Attici et Critobuli, sia nei commenti scritturistici, soprattutto nei commentari in Danielem e poi in qualche altro accenno in alcuni commenti, in commenti dei profeti minori, in Amos, mi sembra. Sono riferimenti che sono abbastanza noti, e poi nelle epistole di contenuto esegetico. Qualche sondaggio a questo riguardo. La sezione più ampiamente discussa da Gerolamo e la più nota è quella relativa all'interpretazione della profezia di Daniele, sulla quale non è necessario soffermarsi a lungo perché è già nota a tutti. La polemica geronimiana, tuttavia, è esposta ad una critica abbastanza grave da parte degli studiosi, cioè si obietta che la risposta all'interpretazione di Porfirio non sarebbe stata un'escogitazione di Gerolamo Madesimo, ma che Gerolamo l'avesse trovata già nelle opere di coloro che avevano polemizzato contro Porfirio, cioè sia Eusebio sia Apollinare e altri. Tuttavia, se così fosse, bisognerebbe spiegare perché il Contra Christianos, se non è stato conosciuto direttamente, è citato anche altrove da Gerolamo e non solo nel contesto del commentario in Daniele. Quindi probabilmente una certa conoscenza del Contra Christianos doveva averla anche al di fuori del momento in cui scriveva, anche quando non scriveva, anche in anni che non hanno a che fare con la composizione del commento a Daniele. Vari sono gli aspetti della polemica di Gerolamo contro l'opera di Porfirio. Spesso le accuse del filosofo pagano contro le quali si muove Gerolamo sono le medesime che possiamo conoscere grazie alla demonstratio evangelica di Eusebio di Cesarea, alle Questiones Veteris et Novi Testamenti dell'Ambrosiaster che derivano dall'ambiente pagano di Roma o ad altre opere analoghe, ad esempio il De Consensu Evangelistarum di Agostino, le lettere dello stesso Agostino a Volusiano. A questo riguardo vi è una tendenza della critica, già iniziata anche questa da Courcel e recentemente anche da Rinaldi, la tendenza di vedere, di collegare le risposte di Gerolamo alle questiones dibattute da questi scrittori cristiani, come se si trattasse di un riferimento, di una replica dei cristiani alle obiezioni di Porfirio, come se si trattasse di un, come dire, di una serie di questioni che Porfirio avrebbe divulgato a Roma e delle quali tengono conto gli scrittori cristiani. Recentemente, proprio ieri, Lorenzo Perrone mi ha dato un suo estratto di un suo contributo che ha proprio questo titolo: Echi della polemica pagana sulla Bibbia negli scritti esegetici fra IV e V secolo, le Questiones Veteris et Novi Testamenti dell'Ambrosiaster. Non ho fatto in tempo a leggerlo, mi dice che la sua posizione è leggermente diversa da quella di Courcel e Rinaldi. Comunque faccio riferimento a questa indicazione di Perrone. Più in generale, Gerolamo rileva che Porfirio avrebbe mosso agli evangelisti l'accusa di essere menzogneri, un'accusa che si ricollega con quella riscontrabile un po' presso tutti i polemisti pagani, che gli evangelisti sono spesso in contraddizione tra di loro. Se sono in contraddizione, evidentemente qualcuno deve essere in torto. E Creplico, gli dice nell'Epistola 57 a Pammachio, non per accusare di falsità gli evangelisti, questo infatti è l'atteggiamento normale dei pagani, degli empi, cioè di Celso, di Porfirio e di Giuliano. In particolare, le critiche di Porfirio, prese in considerazione da Gerolamo, riguardavano il comportamento di Gesù e degli apostoli. Una era, nei confronti di Gesù, quella di incostanza e di contraddizione, come si ricava da un passo del Dialogus Adversus Pelagianos, come da un passo dell'Ambrosiaster ugualmente. Cioè, Cristo disse che non sarebbe voluto andare alla celebrazione della festa delle capanne e fece poi quello che prima aveva detto che non voleva fare. Latrat Porfirius, questo è tipico tutte le volte che si cita, Porfirio, Tertulliano adopera una parola, sì, Tertulliano, Gerolamo adopera una parola che non è mai dice, ma latrata o qualcosa del genere. Lo accusa di incostanza e di mutamento, perché non sa che tutti gli scandali, cioè tutte le contraddizioni, debbono essere riportate alla carne, cioè alla carne umana di Cristo. Più impegnativa era un'altra obiezione, quella che Cristo aveva tardato così a lungo inspiegabilmente la propria incarnazione, sì che molti uomini, cioè tutti quelli che erano vissuti prima di lui, non avevano potuto approfittare della salvezza che egli portava. Questo lo si legge in un passo dell'epistola a Ctesifonte, in epoca tarda, siamo intorno al 415. E infine, questa è l'obiezione che di solito ci muove il vostro amico Porfirio. Vostro amico è detto nei confronti dei pelagiani. Qui con certo l'accostamento di Porfirio ai pelagiani è tirato per i capelli, diciamo così, ma si può forse capire proprio in base a questa obiezione. Cioè, questa era l'obiezione di Porfirio. Per quale motivo Dio, che è clemente e misericordioso, ha lasciato passare, ha permesso che per tutto il tempo che va da Adamo fino a Mosè e da Mosè fino all'avvento di Cristo, ha permesso dunque che tutte le genti perissero per ignoranza della legge e degli ordini di Dio. E infatti, né i britanni, una provincia così ricca di tiranni, né le popolazioni della Scizia e tutte le popolazioni barbare che abitano lungo l'oceano hanno mai potuto conoscere Mosè e i profeti. Questo riferimento ai britanni, alla Scizia, forse è proprio un eco, sono forse proprio le parole di Porfirio che scriveva con riferimento agli avvenimenti del 297, alla rivolta di Carausio in Britannia, forse più che le parole proprio di Gerolamo. Ancora dice Porfirio: qual è stato il motivo per cui è arrivato solo negli ultimi tempi e non prima che morisse una quantità infinita di uomini? Questa critica di Porfirio, perché cioè ha atteso così tanto Cristo a incarnarsi, è una critica che era tipica dei pagani, la possiamo qui riscontrare sia soprattutto in Celso in forma diretta, sia in forma diretta dagli scrittori che abbiamo detto, sia Agostino sia l'Ambrosiaster, e poi anche da, per esempio, in Gregorio di Nissa, nell'Orazio Catechetica Magna, proprio Gregorio di Nissa informa i suoi catecheti che debbono prepararsi a rispondere anche a una serie di obiezioni pagane di questo genere, cioè perché mai Cristo ha tardato tanto a incarnarsi. Preme poi a Gerolamo fornire la corretta interpretazione del cosiddetto contrasto di Antiochia, di cui si è parlato e si parlerà naturalmente, che aveva costituito un problema di una certa consistenza per l'esegesi cristiana. Porfirio conosceva naturalmente solo l'esegesi di lingua greca e su di essa ci informa proprio Gerolamo in una serie di passi convergenti, per quanto scritti in epoca diversa. Vado rapidamente perché su questo problema già si è parlato e si parlerà ancora. Gerolamo, come noto, da prima propone la sua interpretazione nel commento all'Epistola ai Galati, che risale al 386 circa, poi la difende ancora nell'Epistola 112 ad Agostino, che è del 404. Si trova naturalmente il problema dell'interpretazione di come spiegare il contrasto di Antiochia tra Pietro e Paolo è più volte presentato. Io accenno solo qui ad alcuni punti proprio perché la cosa non è nuova nel contesto di questo convegno, cioè l'interpretazione che segue Gerolamo era stata già avanzata da Origene per primo nel decimo libro degli Stromata, un'opera andata perduta che comunque sembrava che dovesse, tra le altre caratteristiche, si diceva che per mezzo che quell'opera Origene avesse particolarmente attinto alla filosofia pagana. Comunque doveva essere proprio un'opera di carattere miscellaneo, perché oltre che di filosofia si interessava anche di esegesi cristiana. Dunque, ora Porfirio, sempre nei confronti dei cristiani, particolarmente pronuncia delle bestemmie, perché accusa Paolo di sfacciataggine. Dunque posso citare magari dall'edizione del Cola. Dunque, leggo. La mia tesi è stata origine a seguirla per primo nel suo libro decimo degli Stromati, dove ha commentato la lettera di Paolo ai Galati, e l'hanno seguita poi tutti gli altri esegeti. Il motivo per cui l'hanno avanzata è soprattutto questo. Doveva essere una risposta alla bestemmia di Porfirio, il quale accusa Paolo di audace presunzione per avere osato criticare Pietro, il principe degli apostoli, per avergli lanciato un'aperta accusa, per averlo costretto ad ammettere di aver agito male, e cioè di essere caduto in un errore in cui lui stesso, oltretutto, era caduto, proprio lui che adesso accusava un altro di quel peccato. Già prima che intervenisse polemicamente Porfirio, dunque, Origene e gli altri esegeti orientali avevano cercato di spiegare questo imbarazzante episodio di Antiochia. Su questo imbarazzo, in fondo, della stessa esegesi cristiana, si inserisce polemicamente lo scritto di Porfirio, che sfrutta abilmente a proprio vantaggio un imbarazzo interno della cultura cristiana. E non insisto più a lungo, proprio perché, dicevo, vi sono vari passi al riguardo. In particolare Porfirio accusa soprattutto Paolo di essere stato impudente, sfacciato, non imprudente, accusa la impudenza di Paolo, non l'imprudenza come traduce Cola, e dice che il contrasto di Antiochia è sostanzialmente un puerile certamen, qualche cosa di puerile, che Paolo era mosso dalla invidia nei confronti di Pietro, e dice Gerolamo, invidia virtutum Petri, i traduttori traducono sempre l'invidia delle virtù di Pietro. Mi domando se non si possa intendere anche, lo chiedo ai colleghi appunto, perché l'invidia per i miracoli già compiuti da Pietro, forse, perché Pietro qualche cosa era stato virtutes con questo significato. Ditemi voi però se questo è possibile, come dice, come dynamis, se è possibile. Questa è una proposta che fa, piuttosto che le virtù, che mi sembra un poco generico. Poi vi è un altro passo, forse meno noto, che appunto un altro passo, sì, certo, meno noto perché non riguarda proprio il contrasto di Antiochia, che quindi metto da parte, ed è, lo si trova nel, un altro passo con riferimento a Porfirio, lo si trova nel commento ai Galati. Commentando il passo di Galati 1,16, Gerolamo dice, cita il passo paolino, e cioè, continuo non acquievi carni et sanguine, cioè subito non acconsentii, non detti retta a quello che volevano la carne e il sangue, questo non acquievi, ma prosegue, sive ut in greco melius habet, preferisce rifarsi al testo greco, non contuli cum carne et sanguine, cioè non ebbi nessun rapporto con la carne e col sangue. Cosa vorrà dire a questo punto? Indica l'inizio immediato della predicazione di Paolo. Il versetto che Gerolamo preferisce nel suo significato in greco deve essere tradotto, così traduce Pietro Rossano, subito senza consultare la carne e il sangue, cioè, come il Rossano stesso annota, trattasi di un semitismo per disegnare gli uomini in quanto tali. Non ebbi contatto con nessuno, iniziai la mia predicazione per conto mio. E Gerolamo prosegue, so che la maggior parte degli interpreti pensa che queste parole siano state dette a proposito degli apostoli, cioè Paolo non avrebbe avuto contatti con gli apostoli provenienti dal giudaismo, che definisce con il termine generale di carne e sangue. Orbene, sembrerebbe che questi interpreti fossero d'accordo con Porfirio. Infatti, dice, nam et Porfirius obicit, vale a dire anche Porfirio obietta, che Paolo, dopo che gli fu rivelato Cristo, non si era degnato di andare dagli uomini e conversare con loro per non ricevere un insegnamento umano dopo che il suo insegnamento lo aveva ricevuto da Dio. Nam et Porfirius obicit quod, post revelationem Christi, non fuerit dignatus ire ad homines et cum eis conferre sermonem, avere rapporti con loro, né post doctrinam videlicet Dei, dopo l'insegnamento di Dio, a carne et sanguine si instrueretur, fosse istruito dagli uomini, a carne et sanguine. Di conseguenza, gli esegeti cristiani pensano che Paolo volesse dire di non aver avuto contatto con gli apostoli, interpretazione che è rifiutata da Gerolamo, ma io me ne guardo bene dal considerare carne e sangue Pietro, Giacomo e Giovanni, dato che la carne e il sangue non possono possedere il regno di Dio, con riferimento alla prima epistola ai Corinti. E prosegue nell'interpretazione osservando che la carne e il sangue significano sostanzialmente gli increduli, gli uomini comuni. Non dette contezza del Vangelo che gli era stato rivelato. Quindi anche in questo caso Porfirio interviene in questo contrasto di interpretazioni cristiane per sottolineare forse uno degli aspetti meno onorevole per il cristianesimo stesso. Quindi qualche accenno che ho voluto dare qui a questo rapporto tra Gerolamo e il Contra Christianos. Il secondo contesto della polemica, o meglio della polemica, e il secondo contesto è diverso perché non si tratta più di una polemica, ma di una utilizzazione diretta da parte di Gerolamo di opere di Porfirio. Abbiamo a che fare innanzitutto con l'utilizzazione del De abstinentia ab animatis, cioè l'opportunità del trattenersi dal mangiare carne di animali, cioè un'opera che proclama la necessità del vegetarianismo. Evidentemente l'opera del filosofo pagano, dell'esecrabile nemico del cristianesimo, è considerata valida o almeno utile da Gerolamo e per questo motivo viene adattata al pensiero cristiano. L'utilizzazione di Porfirio si dividerebbe in tre sezioni. Ora non do i dettagli perché sono più difficili da seguire, magari si vedranno meglio negli atti e nella stesura. La prima sezione è nell'Adversus Jovinianum, cioè si tratta l'utilizzazione tutta dell'Adversus Jovinianum. La prima nel primo libro contiene estratti di testimonianze antiche relative alla virginità nell'intento di mostrare che l'ideale della castità non era estraneo nemmeno al paganesimo. Si pongono davanti al lettore gli esempi di vergini come Atalanta, le Vestali, Minerva, le Sibille. Al termine di tale sezione, Gerolamo stesso ci informa dell'origine del materiale impiegato, dicendo che Aristotele, Plutarco e il nostro Seneca, interessante naturalmente questo nostro Seneca, hanno scritto dei libri sul matrimonio, dai quali derivano alcuni degli elementi, alcune delle informazioni precedenti, le mie informazioni precedenti e queste che adesso vi propongo. Infatti Seneca, Teofrasto e altri sono citati in questo contesto. Il problema qui è sapere da dove derivi questo passo, perché gli studiosi sono inclini a riportare tutto questo contesto a Porfirio, ma non è stata ancora individuata con sicurezza l'opera di Porfirio. Addirittura il Bickel, che scrisse all'inizio di questo secolo, propose una fantomatica opera per i Agnubiu, cioè un'opera sulla vita, sul modo di vivere santo, sul modo di vivere casto, che però non esiste, non solo è andata perduta, ma di essa non è stata data nessuna, non esiste nessuna notizia da parte di altre fonti, quindi siamo giunti a un impasse, diciamo così, perché non si vuole credere che Gerolamo stesso abbia letto determinati autori. Può avere conosciuto Teofrasto ed eventualmente anche Aristotele, se non attraverso Porfirio, attraverso altre sillogi che potevano esistere, potevano circolare. Qui ci si vuole, la critica si è un po' impantanata, diciamo, a questo punto. Hagendal, nella famosa opera su The Latin Fathers and the Classics, ha seguito insieme a Courcelle la proposta di Bickel, che cioè verosimilmente Gerolamo seguiva Porfirio in questo contesto, ma ha lasciato perdere l'idea di questa fantomatica opera per i Agnubiu, che non si trova. Più precisa è il confronto tra Gerolamo e Porfirio in qualche altro passo successivo. Sempre nell'Adversus Jovinianum, una serie relativa al secondo libro, elenca vari esempi e varie considerazioni che sono molto vicine al testo del filosofo pagano. Ora, siccome questi passi sono, seguono molto da vicino il testo greco, Courcelles ha detto con, si è espresso proprio in questo modo, questi capitoli sono un vero plagio di un'opera di Porfirio, cioè del De Abstinentia, che Gerolamo si guarda bene dal nominare. Già lo stesso Bickel aveva sottolineato con notevole ostilità questo comportamento di Gerolamo, che aveva accusato di plagio, di saccheggio, di ladrocinio, lo chiama compilator, mi pare, addirittura, che è più forte, appunto, significa proprio saccheggiare. Il problema è, a questo punto, di carattere sia generale, sia metodico, e lo vedremo, lo considereremo tra poco, sia di carattere appunto puntuale, e per un esame puntuale dei testi bisognerà rifarsi non agli atti, perché non posso farlo in assenza del testo sotto gli occhi. Faccio solo riferimento a un punto preciso, perché è stato considerato come così, un tono di scandalo sia da Bickel, sia da Courcelles, sia da Hagendahl, un po' da tutti. Vale a dire un riferimento, vale a dire un passo in cui Gerolamo si basa su Porfirio, semplicemente adattando alla cultura cristiana, alla morale cristiana, quello che Porfirio aveva detto in un contesto di ascesi pagana. E l'esempio comincia così. Do la traduzione di Gerolamo e faccio riferimento poi anche a quella di Porfirio, ma in sostanza i due passi sono paralleli e molto vicini. Se poi è vero che le verdure non sono in grado di fornire al corpo umano le forze che aveva quel famoso atleta Milone di Crotone, forze che nascono e si alimentano dall'uso delle carni, che bisogno c'è per un uomo che è sapiente, che è filosofo di Cristo, possedere tanta forza fisica che invece è necessaria agli atleti e ai soldati, forza che poi, quando uno ce l'ha, serve a provocare al vizio. Considerino pure che siano conformi alla buona salute le carni coloro che vogliono servirsene, malamente a scopo di libidine, e che, sprofondati nel incenum, nel fango dei piaceri, sono sempre ribollono per il congiungimento sessuale. Tipica espressione di Gerolamo, ad coitum semper exestuant, questo exestuare tipico della tipica espressione di Gerolamo. Il cristiano ha bisogno di una buona salute senza un eccesso di forze fisiche. Questo è un passo che ha fatto gridare allo scandalo, perché è pressoché un adattamento dell'opera, del passo analogo di Porfirio. E ha suscitato scandalo il fatto che invece, secondo me, non solo è normale, ma anche lì è il clou dell'interpretazione, il fatto che in Porfirio dice le forze non sono necessarie to filosofo, al filosofo, e invece Gerolamo ha detto filosofo Christi. Evidentemente è l'adattamento del testo greco, del testo pagano al testo cristiano, bisognava appunto precisare. Poi proprio il concetto di filosofia Christi, il concetto di filosofia è uno dei più importanti e più stimolanti nel corso del IV e V secolo, sia in ambito latino sia in ambito greco. Quindi il fatto che abbia aggiunto Christi a indicare la filosofia di Cristo non è stato fatto per un pure semplice adattamento meccanico, ma per indicare un problema che in quel momento era dibattuto. E poi quest'ultimo concetto è veramente aggiunto: cristiano sanitas absque viribus nimis necessaria est, la buona salute necessaria al cristiano senza che egli faccia riferimento alle forze, a eccessive forze fisiche. Ora non ho tempo e mi pare che non sia opportuno insistere sui punti particolari che, ripeto, richiedono un esame puntuale. Debbo dire un'altra cosa, che sempre nell'Adversus Jovinianum Gerolamo fa riferimento non soltanto a Porfirio, scusate, non so, dunque Gerolamo fa riferimento a Porfirio, ma non, al, non soltanto al, al De Abstinentia, ma anche al De Vita Pitagorica, la vita, alla, al pass, alla vita di Pitagora di Porfirio. E questo riferimento non viene fatto nell'Adversus Iovinianum, scusate, ma nella Epistula Adversus Rufinum, nella lettera contro Rufino. E anche nella lettera contro Rufino viene impiegato Porfirio con ampi stralci regolarmente tradotti in, in latino. Ora direi che giustamente Lardè, commentando la, la lettera contro Rufino, ha sottolineato due cose in sostanza. Prima di tutto che non c'è niente di strano che Girolamo riprenda e traduca questo contesto. L'importante è vedere quale sia, la, quale sia il metodo e quale sia la finalità di questa traduzione. Lardè, che io qui in sostanza riassumo, dice «Gridare allo scandalo per la ripresa di questi motivi porfiriani sarebbe dare la preferenza al moralismo letteralista di Rufino contro un'estetica dell'imitazione letteraria nella quale, queste sono parole poi di Fontaine, il massimo dell'arte consiste nel nascondere le proprie piste». Qui Gerolamo tratta Porfirio non diversamente da come egli tratta Quintiliano altrove e, come l'origine del Periarcon non è l'origine delle omelie, così l'autore della vita pitagorica è meno condannabile di quello del Contra Christianos. Cioè c'è differenza evidentemente tra i due contesti, dei quali l'uno può essere impiegato, per, cioè l'uno deve essere oggetto di polemica, l'altro può essere impiegato proprio nei, nelle opere di carattere morale. Questo io credo che sia l'atteggiamento da seguire e che andrà, semmai, applicato anche ai passi precedenti, ponendo un confronto tra l'Adversus Iovinianum e la De Abstinentia, di cui vi dicevo prima, passi che andranno tutti reinterpretati alla luce di questi criteri letterari che non erano quelli di Bickel e nemmeno purtroppo di Courcelles o tantomeno di Hagendahl. Del resto, e per concludere, questo era, se non sbaglio, l'atteggiamento consueto degli scrittori cristiani nei confronti di quei pagani dei quali utilizzavano le idee e gli scritti. Solo Agostino, a mia conoscenza, procede in modo più scientifico nel De Civitate Dei, citando le dottrine di Porfirio e di altri platonici e facendo il nome dell'autore di quelle dottrine, ma appunto in un trattato come era il De Civitate Dei. E forse si può ricorrere a quanto Gerolamo stesso aveva scritto in una importante lettera ad Amaso, l'Epistola 21. Aveva spiegato che la sapienza secolare, i carmi dei poeti e il turgore della retorica pagana sono solamente cibo offerto dai demoni. Gerolamo riprende la consueta contrapposizione tra la dolcezza del suono, tra la bellezza esteriore e la vacuità dei contenuti, un topos della letteratura cristiana, nel quale tuttavia il letterato Gerolamo fa risuonare con più sensibilità di altri la corda della dolcezza della poesia. Il tipo della sapienza pagana, il tipo in senso antico, si legge nel Deuteronomio, è quello della donna prigioniera, che l'israelita, della donna fatta prigioniera in guerra, che l'israelita può prendere come moglie solo se l'ha prima convenientemente purificata. Una prescrizione questa che è assurda se la si intende la lettera, prosegue Gerolamo. Essa ha un significato che riguarda noi. E così anche noi dobbiamo comportarci allo stesso modo quando leggiamo i filosofi, quando vengono nelle nostre mani i libri della sapienza del mondo. Se c'è qualche cosa, se troviamo qualche cosa di utile in essi, ad nostrum dogma convertimus, noi li modifichiamo per la nostra dottrina, come ha fatto appunto nell'Adversus Iovinianum, ad nostrum dogma convertimus. Se invece troviamo in essi qualche cosa di superfluo, relativo agli idoli, all'amore e alla cura per le cose secolari, tutti questi particolari noi li rasiamo, per questi particolari noi proclamiamo un taglio dei capelli, calvitium indicimus, questi particolari noi li tagliamo con un ferro appuntito come se si trattasse di unghie. Si tratta appunto della purificazione che l'israelita doveva a cui l'israelita doveva sottoporre la donna presa, catturata in guerra. Era questo un atteggiamento normale nel IV secolo e lo si ritrova chiaramente enunciato in un altro scrittore che di solito non è accusato di faziosità come Gerolamo. Ci riferiamo a Gregorio di Nissa, il quale nella vita di Mosè, commentando il fatto che Mosè era stato raccolto dalla figlia del faraone che era sterile, si era espresso nel modo seguente. Sterile è veramente la cultura profana, sempre è nelle doglie ma mai genera un figlio vivo. Quale figlio delle sue lunghe doglie potrebbe mostrare la filosofia, un figlio che sia degno di tali e tanti travagli? Dunque uno, dopo che è vissuto nella vita della principessa degli egiziani, tanto quanto basti perché non sembri privo di ciò che è importante presso di loro, quindi conosca pure le cose dei pagani, ricorra a colei che è sua madre secondo natura, cioè la Chiesa. Questo fatto insegna, mi sembra, che se uno frequenta i ragionamenti profani nel momento della sua educazione, non deve distaccarsi dal latte della Chiesa che ci nutre. Il latte consiste nelle tradizioni e nelle consuetudini della Chiesa, dalle quali è nutrita e maturata l'anima nostra, facendo della sapienza profana il punto di partenza per salire più in alto. Gerolamo ha trovato dunque negli scritti morali di Porfirio, per quanto pagano egli fosse, qualcosa di utile e lo ha ripreso mutandolo perché si adattasse alla dottrina cristiana. Egli non riteneva necessario nominare la persona che ne era l'autore perché oramai quelle dottrine erano per lui diventate cristiane. Il famoso plagio di Gerolamo dalle dottrine di Porfirio, che ha fatto gridare allo scandalo i critici, non è altro che un episodio assolutamente normale dei rapporti tra cristianesimo e paganesimo eseguito secondo i modi soliti. Grazie.